in primo piano. Mercoledì 21 luglio sono due le aperture dei giornali più scelte: quella sulla legge delle intercettazioni, c'è stato un accordo nella maggioranza che cambia un po' il testo, c'è la vicenda anche di mafia e inchieste che rischia di terremotare la politica, anche se poi vedremo, forse sono allarmi ingiustificati. Intanto il Sole 24 Ore parla dell'industria che torna a correre, questo è il titolo di prima pagina, segnali di ripresa per l'industria italiana, a maggio registrato il balzo tendenziale del 26,6% degli ordini, un aumento del 12,5% dei ricavi, dunque in primo piano per il Sole 24 Ore l'industria che torna a correre. Come detto, accordo sulle intercettazioni per il Corriere, dietro fronte sulla legge Bavaglio per Repubblica, intercettazioni c'è l'intesa per la Stampa, intercettazioni il governo cambia, questo è il Messaggero. Mentre sulla questione mafia, vedremo poi di cosa si tratta, annuncio dei PM di Caltanissetta per il Giornale, una bomba sulla testa di Berlusconi. Mentre Libero, i giudici minacciano Silvio. Interessante, vedremo, perché i due giornali di riferimento di centrodestra titolano così. Allora, le intercettazioni però. C'è il compromesso trovato con un emendamento presentato dallo stesso governo al testo sulle intercettazioni, un emendamento che di fatto fa una sorta di passo indietro al disegno di legge. Saranno pubblicabili solo gli atti rilevanti, cioè viene allentato un po' la stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni. L'applauso di Fini che loda il compromesso, e invece c'è un Berlusconi che ieri si è detto molto deluso. Tutto resta com'è, l'Italia non sarà civile. Ieri Berlusconi era a Milanello per la presentazione del Milan, non ci andava da 3 anni. Questa volta invece si è presentato, abbiamo sentito in GR Sport, è stato anche contestato per questioni sportive. E Berlusconi: va a finire che avremo una legge che lascerà pressappoco la situazione per quella che è. Berlusconi che boccia così le modifiche al disegno di legge, modifiche che sono state volute per il solito compromesso tra finiani e berlusconiani dallo stesso governo. È il sottosegretario Caliendo, quello che anche nelle polemiche per la legge sull'inchiesta sulla P3, che ha proposto un emendamento al disegno di legge. Ma il retroscena di Francesco Verderami sul Corriere è proprio questo: il cavaliere con la sconfessione del guardasigilli spiazza anche Letta. Avrebbe voluto cambiare la manovra economica, blindare la riforma delle intercettazioni, è successo il contrario. Ecco perché il pessimo umore di Berlusconi, segnalato da quanti hanno avuto modo di parlargli, è dettato dal non firmo che lo hanno costretto alla resa sui due fronti: quello preannunciato da Tremonti, se fosse stato modificato il provvedimento finanziario, e quello minacciato da Napolitano, se non fosse stata modificata la legge sulla giustizia. È proprio qui, secondo Francesco Verderami, per oltre un mese Alfano è andato su e giù dal Colle, cioè dal Quirinale, come un cireneo, ligio a cantare e portare la croce in nome per conto del cavaliere. E poi c'è stato questo emendamento perché, come fa sottolineare anche Repubblica, Alfano avrebbe detto a Berlusconi: guarda che se non cambiamo la legge così Napolitano non la firma. Ma il modo in cui Berlusconi ha sconfessato ieri il compromesso raggiunto dal centrodestra con l'emendamento ha colto tutti di sorpresa. Anche Gianni Letta non ne sapeva nulla, Alfano men che meno. E così il premier ha rotto clamorosamente il fronte. Ieri vestiva i panni del Presidente del Consiglio e con la sua mossa non solo ha delegittimato il guardasigilli, che ha agito sempre in piena sintonia con Palazzo Chigi, con le sue parole ha consegnato la vittoria a Fini e in piccola parte anche a Casini. Insomma, Francesco Verderami dice: ha spiazzato lui stesso, la sua stessa, i suoi stessi stretti collaboratori, Gianni Letta, il guardasigilli Alfano, che avevano mediato per questo emendamento con il Quirinale. Ma Berlusconi ha detto: questa modifica della legge non mi piace, è un qualcosa che lascerà tutto così com'è. Per Filippo Facci, che è uno dei più feroci critici dei cambiamenti della legge e uno dei più strenui sostenitori invece di questa legge così com'era, in prima pagina di Libero Filippo Facci è molto duro: così hanno salvato la libertà di sputtanare. Siamo alla farsa nella farsa, scrive Facci. Ora il governo si è inventato un'udienza filtro che a un certo punto delle indagini, ben prima del processo, riunisca PM, avvocati, giudici per decidere quali intercettazioni possano essere pubblicate e quali debbano sparire. L'emendamento Caliendo. Il criterio è quello ultradiscrezionale della rilevanza, chimera soggettiva che tanto ricorda l'estrema ratio e che poi è divenuta una regola. Lo capisce anche un minorato che la nuova norma serve soltanto a essere elusa. Esattamente come capita adesso, anzi peggio, perché ufficializza la perfetta discrezionalità di tre parti, da immaginarsi il mercato delle vacche, PM avvocati che trattano sui verbali, io ti faccio pubblicare quello, tu questo, con una parte che però rimane esclusa in fondo alla filiera, i giornalisti. Proprio loro diverranno solo i fruitori finali di pacchetti di carta e intercettazioni preconfezionate. Hanno salvato la libertà di sputtanare, così scrive Filippo Facci. E a proposito di intercettazioni, che cosa fa oggi il Fatto Quotidiano, legato alla vicenda sull'intrigo P3, così è titolato in prima pagina? Ecco tutte le telefonate. C'è una sorta di inserto di 8 pagine. P3, l'indagine. E ci sono, al grido di perché tutti sappiano, l'elenco di tutte le telefonate. Quindi mentre si parla di intercettazioni è molto significativo che il Fatto Quotidiano, la legge ovviamente non è stata ancora passata in discussione, pubblica un inserto centrale di 8 pagine, ma non le ho contate, forse sono anche 12, con l'elenco di tutte le intercettazioni che a spizzichi e bocconi peraltro sono già finite sui giornali in questi giorni. A proposito delle inchieste P3, continua con che cosa? Con verbali, con oggi per esempio Repubblica fa un focus sulla figura di Formigoni, analizza il titolo a pagina 9, Formigoni chiese aiuto alla loggia, Marra può far qualcosa per la lista? Questo è il titolo. Marra è il presidente della Corte d'Appello di Milano, la cui nomina è stata giudicata, insomma, forse inficiata da queste pressioni da parte della presunta P3 sul CSM, e Formigoni, ci sono qualche telefonate con Arcangelo Martino, uno dei tre arrestati, nelle quali secondo Repubblica Formigoni cercava di capire se l'amico, e l'amico viene identificato in Repubblica in Marra, appunto, poteva fare qualcosa per la riammissione della lista che era stata esclusa alle elezioni ultime nella Lombardia. L'amico è in grado di agire? Così chiede Formigoni, e per gli investigatori l'amico è sopra ogni dubbio il neo eletto presidente della Corte d'Appello Alfonso Fofò Marra, questo il soprannome. A proposito di magistrati, tra l'altro Repubblica fa sapere che ci sono altri magistrati che sono nell'occhio del ciclone. Per esempio Umberto Marconi, presidente della Corte d'Appello di Salerno, che stessa Repubblica ha rivelato qualche giorno fa, sarebbe finito anche nella presunta confezione del dossieraggio contro Caldoro, il presidente della regione Campania, il dossieraggio nel quale Caldoro viene definito uno che andava a trans per screditarlo, e per gli investigatori ebbe parte attiva in questo dossieraggio il presidente della Corte d'Appello di Salerno, Umberto Marconi. Notizia che il CSM ha detto: a questo punto interveniamo anche su di lui. Ma che cosa ha fatto Umberto Marconi? Ha giocato d'anticipo. Pur ribadendo la mia estraneità ai fatti, ha scritto in una lettera, ho chiesto sin da ora una nuova sede, quindi il trasferimento, perché dopo quello che è successo ritengo, pur non avendo alcuna colpa, di non poter continuare a svolgere le mie funzioni con la dovuta serenità. Insomma, ha anticipato tutti. Umberto Marconi, presidente della Corte d'Appello di Salerno, ha anticipato il CSM e chiede spostatemi di sede. Però, dice, sono vittima di un grossolano trappolone, forse c'è lo zampino di qualche manina deviata per creare un'artificiosa antitesi tra la Procura di Napoli e gli uffici di Salerno. Che cosa c'è nelle inchieste? Qualche telefonata con Arcangelo Martino, sempre lui, alla presenza del sindaco di Ponte Cagnano Ernesto Sica, ex assessore regionale, anche lui coinvolto in questo dossieraggio, ma dice in questo colloquio l'interpretazione che danno i carabinieri di quella telefonata è che io fossi a conoscenza dell'attività di dossieraggio contro Caldoro, ma non è assolutamente così, scrive in questa lettera il presidente della Corte d'Appello di Salerno. Sta di fatto che di questa inchiesta, e su questa inchiesta si produce oggi anche Giuliano Ferrara in un lungo fondo che trovate in prima pagina sul Foglio. E Ferrara parla proprio di questo, il caro dottor Fofò. Fofò è il soprannome di Alfonso Marra, presidente della Corte d'Appello di Milano. Il caro dottor Fofò e la nuova P3. Non è per provocare, scrive Ferrara, ma se un accenno di P3 ha da esserci, poté la nomina del caro dottor Fofò a capo della Corte d'Appello di Milano. Un business pienamente realizzato e con una componente trasversale lobbistica mica male. Infatti, oltre ai congiurati P3isti, hanno votato per questo Fofò anche Nicola Mancino, garante istituzionale del CSM, amico e corregionale del modesto attivista giudiziario irpino immaginato da Ezio Mauro e da altri a capo della nuova loggia gelliana, nonché altri eminenti togati e laici di sinistra. E così dice Ferrara, se c'è scandalo, lo scandalo è nel modo di nomina dei magistrati, nel funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura. Il pitreismo è l'ideologia che guida la casta togata nelle sue scelte di fondo su persone, funzioni, incarichi, arbitrati, cordate, correnti, raccomandazioni e ricatti vari. Il presidente Napolitano dovrebbe probabilmente riflettere su questo, agire con la tempra politica che a volte gli si deve riconoscere. Insomma, il problema, dice Ferrara, in questo lungo fondo è proprio come vengono nominati i giudici, come funziona il CSM. La conclusione di Ferrara è questa: sia chiaro, io non penso che esista una P3. Esiste solo una logica molto consumata del potere che riaffiora ogni volta che c'è, come ora, una crisi di leadership e di sistema. Non penso che a capo dell'inesistente P3 ci sia Nicola Mancino, che ogni tanto viene tirato in ballo, ora per la trattativa tra Stato e mafia, ora per la nomina di Fofò. Ma a forza di coglionare il pubblico con gli ultimi ritrovati parodistici della propaganda politica perbenista, finisce che gli scandali diventano paradossi e i paradossi schiaffi alle istituzioni o tappi contro la possibilità di fare riforme utili. Questo Giuliano Ferrara sul Foglio. Oh, a proposito di politica, Berlusconi si può consolare certo con, se ci sono polemiche, anche contestazioni a Milanello dei tifosi del Milan. A proposito, Berlusconi lo venda Ronaldinho, aperta, chiusa parentesi, non è più il miglior giocatore del mondo da un po' di tempo, lo venda. Ma non sarà così, purtroppo. Studierò e lavorerò, ma non nelle aziende della mia famiglia, è Barbara Berlusconi, la figlia di Berlusconi e Veronica Lario, che si è laureata ieri. Una discussione di tesi su Amartya Sen, a 25 anni, già mamma di Alessandro Edoardo. E con Angela Frenda scambia qualche parola. Tra l'altro Berlusconi è piombato, qualcuno ha scritto ha fatto irruzione alla tesi di laurea, non ha assistito alla discussione ma è arrivato subito dopo. E Barbara Berlusconi ad Angela Frenda confessa: lavorerò, ma farò qualche lavoro fuori dal perimetro del gruppo di famiglia, perseguendo per quanto possibile le mie inclinazioni, i miei interessi. Non vorrei fare un percorso già segnato solo perché sono la figlia di Silvio Berlusconi. Chissà, forse tira un sospiro di sollievo la figlia del primo matrimonio, Marina Berlusconi, presidente della Mondadori, perché sapete che era uno dei temi. Vorrei lavorare alla Mondadori. La Mondadori a chi andrà? Questo in un'ipotesi futura, se a Marina Berlusconi, che ne è presidente, o se Barbara Berlusconi, e quindi la questione ovviamente legata al divorzio e all'impero Berlusconi per i figli. Troviamo su Il Giornale un duro attacco a Italo Bocchino. Era abbastanza prevedibile, qualcuno dice abbastanza atteso, visto che Italo Bocchino è stato molto molto pronto a criticare sempre Berlusconi, essere un fignano molto ligio. Bocchino mi deve 800.000 euro, io gli ho fatto pignorare casa. Gianmarco Chiocci intervista Loris Bassini, noto alle cronache per avere gestito il rientro in Italia dei 22 miliardi spettanti al Conte Vitali per la mediazione di Telecom Serbia. È una lunga intervista nella quale Chiocci inizia: guardi che Bocchino ha la querela facile, dunque registriamo. Registri pure, che tanto noi facciamo parlare gli atti ufficiali, dice Loris Bassini. Il nodo di questa lunga intervista, che non vi leggo ma trovate a pagina 4 del Giornale, è: gli ho prestato diversi miliardi di lire per salvare il suo giornale, il Roma. Ho usato per salvare lui alcuni dei soldi, appunto, sono rientrati in Italia e spettanti al conte Vitali per la mediazione di Telecom Serbia. Bocchino, che faceva parte della commissione Telecom Serbia, questa cosa non l'ha mai detta. E ora mi deve tutti questi soldi, e alla domanda: ma glieli ha ridati? Che fa, sfotte? Dice Loris Bassini. Gli ho fatto anche pignorare casa della moglie, ma gli ho dato, insomma, tantissimi soldi. Mi deve 800.000 euro, non me li ha mai restituiti. IPM sulle stragi, la verità è vicina. Questa è la vicenda che trovate sulle indagini di Via D'Amelio. La ricorrenza all'uccisione di Paolo Borsellino e la sua scorta è che sta facendo molto discutere in questi giorni. La premessa: tutto quello che leggerete sui giornali come frasi sono state poi smentite in serata dal procuratore antimafia dal presidente della commissione antimafia Pisanu e anche dagli stessi protagonisti. La frase è questa: i PM di Caltanissetta che indagano in Via D'Amelio, su Via D'Amelio, alla commissione antimafia parlamentare, avrebbero detto il procuratore Lari: siamo a un passo dalla verità sulla strada di Via D'Amelio, una verità clamorosa di cui la politica potrebbe non reggere il peso. Così inizia l'articolo di Nino Amadore a pagina 15 del Sole. Il problema è: questa frase che vuol dire? È stata poi smentita, ma già dà modo a Libero e Il Giornale di fare il titolo di prima pagina. Libero, il giornale per esempio titola così: una bomba sulla testa di Berlusconi. E Vittorio Feltri fa un editoriale dicendo: indagano con soli 18 anni di ritardo su Via D'Amelio a Caltanissetta, siamo a un passo dalla verità, una verità clamorosa di cui la politica potrebbe non reggere il peso. Ecco la frase che, peraltro, ripeto, è stata smentita dal procuratore capo di Caltanissetta dicendo, e anche da Pisanu dicendo, non hanno mai detto questa frase, l'udienza è stata secretata, ma chissà. Di cosa si tratti con esattezza non è dato a sapere, scrive Feltri. Tuttavia non è necessario essere delle aquile per prevedere che forse oggi stesso l'esplosiva rivelazione sarà resa di pubblico dominio. E allora qual è il problema? Gli inquirenti sarebbero in possesso di elementi per provare la fondatezza di quelle che sembravano illazioni. Sicché da un momento all'altro ci si attende la convocazione di una conferenza stampa. Da tempo si gira attorno al tema mafia e si dice con insistenza che la criminalità organizzata abbia dato una mano a Forza Italia a imporsi nel paese. Ecco che anche Libero dice così: le minacce del giudice. Cioè, in realtà non è, a parte che questa frase è stata smentita, e poi non è, se anche non fosse smentita, non è che si è detto quale sia questa verità che la politica non può reggere, ma sia il giornale che Libero dicono: attenzione, i giudici minacciano Silvio. Siamo a un passo da una verità di cui la politica potrebbe non reggere il peso. Eccolo qui anche Libero, messaggio esplosivo e sinistro dai PM siciliani che indagano sulla mafia e la morte di Borsellino. A questo proposito La Stampa con Laura Anello fa una cosa meritoria, io lo cito da due giorni e finalmente lo vedo apparire, citato e anche intervistato, poche parole tramite il suo avvocato, l'unico sopravvissuto alla strage di Via D'Amelio, Antonino Vullo, uno degli uomini della scorta che ha 50 anni ma ne dimostra 10 di più e ancora, dice, vive i fantasmi che riappaiono ogni notte quando si sveglia, gli sembra di soffocare, poi di calpestare qualcosa di morbido e quel qualcosa è un corpo. Allora accende le luci, spalanca le finestre, si aggrappa la moglie al figlio e ora dice: no, io non credo che si arriverà mai alla verità e forse non gliene importa più neanche. Non vi credo più, si sfoga l'unico sopravvissuto, Laura Anello, intervista o qualche parola meglio a pagina 6 sulla Stampa, Antonino Vullo, unico sopravvissuto alla strage di Via D'Amelio, che io cito da un paio di giorni, è anche un po' deluso per il fatto che solo oggi spunta il suo nome sui giornali. E infatti quello che io dicevo e lui conferma, porto il senso di colpa di non essere morto insieme coi miei colleghi. Allora, trovate molto sul Sole 24 Ore di questa vicenda, di cui si occuperà anche Oscar Giannino, certamente alle 9, Sigilia, Santa Giulia, falde inquinate, la nostra Raffaella Caranda, tra l'altro, che ne ha parlato in GR, fa anche una bella pagina molto esaustiva sul Sole 24 Ore, pagina 5, insieme a Laura Galvagni, e spiega come e perché un quartiere intero è finito sotto sequestro. Un'intera area, Sigilia, Santa Giulia, un quartiere di Milano, le falde sono inquinate. Il quotidiano nazionale, nell'edizione del Nord, ci titola anche in prima pagina «Bomba Santa Giulia». E anche il Corriere ci dedica due pagine. Voglio andare alle segnalazioni conclusive e parlare di TV nel giorno in cui trovate anche questa notizia importante di nuovo conflitto tra Murdoch e Berlusconi su Mediaset, vale a dire nella prima pagina di Economia e Imprese. Sky nel digitale terrestre, cioè la Commissione Europea ha detto che Sky può andare sul digitale terrestre. Mediaset è infuriata. Ma a proposito di TV, mi interessa quello che trovate sul Corriere. Pagina 38, il vincitore del Grande Fratello, Mauro Marin. Forse ve lo ricordate, uno che aveva degli sbalzi di umore notevoli. Il vincitore del Grande Fratello, ero schizofrenico quando entrai nella casa. Racconta oggi in un suo libro il percorso che ho fatto con il trattamento sanitario obbligatorio. Mentre facevo la endemo lì Provini, ero sotto trattamento sanitario obbligatorio, cioè il mio domicilio era la struttura, un ospedale psichiatrico. Però mi hanno seguito, tutti sapevano, mi hanno detto che stavo bene, tra provini, visite, test. Avevo una schizofrenia con disturbo bipolare che comporta sbalzi d'umore che portano a picchi maniacali in stati di agitazione e super euforia alternati a continui cali depressivi. Ebbene, oggi la sua verità, il vincitore del Grande Fratello, ero schizofrenico e entrai nella casa. E sono stato anche in ospedale con la camicia di forza. Mi legavano al letto di contenzione, non sentivo più il sangue che circolava nelle vene. I farmaci per un lungo periodo mi hanno ucciso, la mia motricità era rallentata. Oggi racconta in questo libro questa vicenda. Infine, una storia che viene da Trento, incredibile, la racconta La Stampa a pagina 20, troppo povera per un figlio. Non è tossicodipendente, non ha problemi di alcun tipo, ma siccome guadagna 500 euro solo al mese a Trento, il giudice del Tribunale dei Minori di Trento ha detto non può permettersi di allevare suo figlio e dunque ha partorito un figlio, ma è stato dichiarato adottabile. Una vicenda denunciata dallo psicologo Giuseppe Raspadori, consulente tecnico di parte del tribunale. La giovane non ha problemi, ha solo problemi di reddito mensile di 500 euro, ma ha scelto di partorire, ha chiesto l'affido condiviso per il bimbo, per poterlo mantenere, e niente. Il tribunale di Trento ha detto no, l'ha dichiarato adottabile, perché 500 euro non sono abbastanza. Troppo povera per un figlio, i giudici le tolgono il neonato, a pagina 20 della Stampa. Una storia davvero, se confermata in tutti questi dettagli, incredibile.